Eri un volto di Disney Channel e facevi simpatiche sitcom. Ora canti, balli e ti vesti, sembri quasi stipendiata da YouPorn. Prima eri Anna Montana, ora sembri una cana, ma a noi piaci un po' sì. Non siamo qua per giudicare, ognuno fa ciò che gli pare, ma se vai avanti così, per sempre cose lunghe leccherai e su palle nere ballerai. Certo il doppio senso c'è, ma sai che te ne fotte a te, ma sai che te ne fotte a te. Mi ricordo ancora quando ero solo un bambino e provavo a fare le onde energetiche in giardino. Volevo diventare Super Saiyan, più non posso. Quando mi provavo a trasformare mi cagavo addosso. Ah, dicevo io volerò con gli aeroplani. Ah, e il naso mi taglierò, voglio essere Krillin. Per un fan, per un fan, per un fan, non c'è niente di peggio che il film che han fatto al cinema, perché i cattivi per me son Freezer e Majin Buu. Non sto Pokémon viola che non posso vedere più. Goku con la voce diversa piuttosto non lo voglio, sarebbe come guardar Rocco Siffredi doppiato da Malgioglio. Le cose orrende di sto film davvero sono troppe, l'unica cosa che si salva è Bulma con le poppe. Adesso mi dispiace, devo andare, sì, perché fra 3 secondi ho un importante incontro, sì, un incontro su una Mac. Minchia, se me ne andavo era figo. Questo governo non ce la fa più e il nostro paese non si tira su. A queste persone a cui piace rubare, qualche rimedio si potrebbe provare. Olli frulli tutti col Kalashnikov, o li mandi tutti in gruppo verso il Bronx, o li tratti come l'enigmista in Soho, o li metti in forno e poi schiacci on, o li metti sotto con il mio Peugeot, o li prendo io e me li inculerò. Forse questo no. Ero stufo del digitale, dei soliti programmi in TV. Speravo che con la parabola potessi averne almeno un po' di più. Adesso spendo 50 euro al mese perché ho preso Sky. Ma che non va, va, va, appena piove lui non va, va, va. Scusi Sky, che cosa devo fa, fa, fa? Si ho spento e riacceso ma non va, va, va. Si ho tolto la scheda e rimessa ma non va, va, va. Si ho tranciato i cavi della luce risaldati ma non va, va, va. Si ho depilato mio nonno ma non va, va, va. Adesso vengo lì e bam, bam, bam, la mia fronte è sul tuo naso, bam, bam, bam. Rivolgo i miei 50 euro, bam, bam, bam. Torno a vedere Rete 7, bam, bam, bam. Non ho più fiato, bam, bam, bam. Caro Babbo Natale, che tu mi ascolti, già lo so. Vorrei scarpe da calcio, sai, perché le mie le ho rotte già da un po'. Ma non le Adidas, manco le Nike, Reebok nemmeno, ti adora già mai. Sono da anni fedele, lo sai. Regalami delle Tiger e dai, per un paio di Tiger, così andrò anche in Champions. Io farò anche gol! Ho mangiato al cinese, devo dirvi ho risparmiato. Sarà che negli involtini c'era l'erba del mio prato. Poi cucina robe strane, ve lo garantisco io. Avevo ordinato il pollo, ma ho sentito un miagolio. Ma all'ingresso c'è un assaggio. Son le nuvole di drago. Se le mangi col formaggio, resta un alito zeppo di merda che non se ne va. Oggi ho mangiato 3 ovetti Kinder, 12 Duplo e 4 Mars. Poi ho continuato, ho preso il Lindor e qualche Lion e 6 Kit Kat. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Questa volta credo proprio di aver esagerato nel mangiare tutto questo cioccolato. Non so manco se lo stomaco lo digerisca. Spero la scioglievolezza non infierisca. Il mio metabolismo non è più come prima. Adesso vado in bagno a cagare alla spina. Dopo tutto sto cioccolato, ti fidi? Che vai dal bimbo della Kinder e gli dici cazzo ridi? Coi Tokyo Hotel facevamo i tour. Ora lavoriamo da Carrefour. Ti prego, se lo sai, dimmi il perché. Non ci caga nessun, non lo so, dimmi come mai non ci ascoltano più. Vendevamo CD fino a Timbuktu, ora so che fanno più concerti, puh. Un ciupito di cianuro mi mando giù, così non serve più neanche la Red Bull per volare lassù. Qui non ci caga nessun. L'acqua porta via il colore, ma lo sporco no, si sente dall'odore che c'è ancora qui, nelle mie scarpe, dentro alle mutande, sembra che c'ho le carpe. Prendi in mano la spugna e il sapone, e lavami con dell'acqua o la pioggia o l'estate, adesso lavami. Come se fossi la tua pentola incrostata e tu il mio Chantecler. Lavami con l'abrasiva senza farmi del male. Adesso lavami, perché io già di cognome son marrone. Le sopracciglia di Elio non son tanto belle. Sembra che al posto degli occhi abbia due ascelle. Simona Ventura, ma che bella donna, se solo non fosse ormai tutta di gomma. E infine c'è Morgan, anche se non ci credi, ma che cazzo sa fare lì che manco sei in piedi. Nella finale abbiamo fatto un duetto, sembravi mio nonno che sbauscia nel letto. Ma i giudici di X Factor sono quattro, e l'unico che spacca il sottoscritto. Tutti che mi dicono sei un grande mica, hai solo un difetto, non ti piace la figa.